Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Certè che soltanto una parola del Papa non è passata indifferente nei commenti nella stampa di oggi, c'è un grande risalto a quelle due parole: sono molto addolorato per Santa Sofia. Cosa accade? Ormai la notizia è risaputa, la cattedrale bizantina, almeno così nasce nel 537 di Santa Sofia, che è uno dei monumenti più importanti, sicuramente il più importante a Istanbul della Turchia, che ha una storia molto travagliata, nasce come cattedrale cristiana, è stato luogo di culto greco, ortodosso per un migliaio di anni, poi sono arrivati i turchi, per altri 500 anni è stata una moschea, poi finalmente lo dico in nome di un godimento generale di quel luogo fantastico, bellissimo, un tesoro artistico inimmaginabile. Nel 1934, con la rivoluzione dei giovani turchi, Atatürk decise che era un luogo aperto al pubblico, un posto di bellezza che chiunque potesse visitare, quindi viene desacralizzata, sconsacrata e diventa quella bellissima, quel bellissimo appuntamento per chiunque possa andare in Turchia, ad Istanbul, la visita, un posto stupendo, pieno di mosaici, di tesori inimmaginabili. Solo il presidente Erdogan ha detto che dal 24 luglio, questo venerdì 24 luglio, tornerà ad essere una moschea, sarà adibita nuovamente al culto. Ha assicurato che comunque potranno andarci comunque i turisti a visitarla, nulla sarà toccato degli oggetti, degli ornamenti che ricordano anche altre religioni, però così è, dice, spero che sia contento così, sia contento il Papa così, ma il Papa ha detto quelle due parole, che ha detto sono molto addolorato, ha preso comunque una posizione, ha fatto capire che non gli sta bene, chiaramente tutti i critici rispetto a Papa Francesco, che lo considerano una sorta di emissario di una chiesa che ormai ha ceduto la giusta gestione delle anime del verbo cristiano, insomma tutti sono diventati teologi, dicono che il Papa Francesco insomma è diventato troppo di sinistra e quindi, come vedi, finalmente ha detto qualcosa contro l'Islam. Gli unici probabilmente a essere forse un pochino dispiaciuti possono essere la Chiesa greco-ortodossa, che in fondo era la loro lì ci stavano, però in generale non voglio entrare tanto nello specifico, dobbiamo indignarci, dobbiamo fregarcene, dobbiamo rifletterci. Mi sto rendendo conto che questo momento di riassegnazione delle paternità indiscutibili ai luoghi, ai monumenti, alle opere d'arte, sta avvenendo una sorta di sovrascrittura rispetto al passato, una sovrascrittura abbastanza violenta che non permette e non tollera la storia di un luogo che sicuramente nasce come luogo sacro, nasce in assoluto come una sorta di Stargate verso l'assoluto, pensando comunque con una certa idea dell'assoluto, perché poi tutti credono in Dio, ma ognuno pensa che comunque la porta per arrivare a Dio sia la sua, preferibilmente quelle degli altri non è detto le vadano a finire. È stata nuovamente cambiata più volte questa destinazione d'uso primario, alla fine è diventato un luogo in cui rimaneva il respiro del sacro su cui era stata costruita, con un'architettura ben precisa. Immaginate che una cattedrale altro non è che un grande ascensore verso l'eternità, così viene creata e pensata, perché là dentro si crei qualcosa che non è soltanto formale, ma è sostanziale. Poi è diventato un posto dove vanno i turisti e i turisti si fanno le foto, girellano, vanno con le loro guide. Oggi, siccome esiste un'operazione indubbia di ritorno comunque a una condizione religiosa della Turchia, dello Stato integralista della Turchia, Turchia che era uno Stato laico, uno Stato che aveva fatto una grande rivoluzione, che aveva lasciato dietro le spalle comunque i retaggi che ne facevano uno Stato di tipo islamico e religioso, sta tornando ad essere questo. E giustamente il presidente Erdogan ha detto, nell'ottica della sua visione, torna a essere una moschea, torna la gente a pregarci dentro. Questo clima di indignazione non tanto è legato al fatto turco, e poi gli italiani e la Turchia non è che se ne siano mai sempre molto occupati, se non alle latitudini in cui arrivavano ogni tanto i turchi a fare razzia. Mi viene da pensare che ancora una volta, come è accaduto per le statue del passato, le vestigia del passato, la rilettura dei film, la rilettura dei romanzi, la rilettura della narrazione, comunque c'è l'idea che si ritorni nuovamente, che chi in questo momento ha in mano il potere di farlo riafferma la propria paternità sui luoghi. È come se un domani si presentassero dei neopagani e dicessero: il Pantheon è un nostro tempio, fuori le salme dei re d'Italia, e torniamo a celebrare, non so esattamente quale tipo di sfaccettatura, comunque continuiamo a lì, ci bruciamo incenso ai nostri dei e ci creiamo i nostri luoghi di culto. 800240024, partiamo dall'analisi di quello che può accadere a Istanbul, dalle parole del Papa che comunque lasciano un segno, comunque non sono parole messe lì per caso, non è che alla fine dell'Angelus ha detto, beh, o dell'incontro faceva, ha detto, beh, pensiamo anche a Santa Sofia, no, è una cosa ben precisa, è un ben preciso anche messaggio politico, come tale è stato preso, oggi c'è chi giubila e c'è chi si contrae per questo nella afflizione che ancora una volta esiste la possibilità di una divisione rispetto a una grande ecumene in cui tutti ci vogliamo bene. Però riflettiamo anche sul fatto, siete d'accordo che a un certo punto debbano fare delle riassegnazioni dei beni che ci ha lasciato il passato, dicendo questo è mio, questo è tuo, questo ci appartiene. Ieri leggevo la storia del grande diamante Koh-i-Noor, quello che sta al centro della corona, la regina Elisabetta d'Inghilterra, c'è una storia bellissima, fantastica, è tremenda. L'India, dice, è il simbolo dell'India, il simbolo del colonialismo, lo rivogliamo. Mi pare che la regina Elisabetta si toglie il diamantone dal suo diadema per ridarlo agli indiani, c'ha senso. Oppure gli oggetti, i luoghi sacri, tutto ciò che ha un valore artistico, ha valore proprio perché è stato continuamente sovrascritto e riassegnato. Non ha padrone, ma è semplicemente padrone di se stesso. Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. Lucetta Scaraffia è il mio supporto, è la mia protesi quando devo parlare di qualcosa che attenga al mondo dello spirito e della religione, perché io ormai ho uno spirito troppo corrotto nella mia visione nichilista e laica. No, è così esattamente. Sono una storica, quindi in questo caso, infatti, sì, per dire, posso tornare. Diciamo, lei ne parla bene senza avere quel profumino di incenso che in realtà non mi dà serenità al giudizio, quindi mi fa piacere. Come la vede lei, Lucetta Scaraffia, questa frase buttata lì dal Papa, che secondo me non è per niente casuale, è una frase potente? No, è potente, però è molto anche gentile, mi dispiace molto e basta. Lei avrà letto le frasi invece che hanno detto gli ortodossi. Lo so, quelli vorrebbero dichiarare guerra, certo. Le frasi di guerra, diciamo così, certo. Poi volete la guerra, hanno detto loro, fra cattolici e musulmani, mentre invece il Papa ha detto solo mi dispiace molto, perché il Papa è molto meno, diciamo così, guerrafondaio, aggressivo. A tutti dispiace un po', se non altro, Lucetta, perché era un posto bello, ci si andava in serenità, comunque sia un luogo di culto, occorre anche il necessario rispetto delle persone che lì svolgono un culto, non ce lo vedremo più con la serenità con cui lo vedevamo prima, questo è poco ma sicuro, ammesso che ci si possa andare. La preghiera che rimarrà chiuso, l'obbligo di entrare senza scarpe, per esempio, che adesso non c'era, cioè torna a essere uno spazio sacro. Le donne dovranno essere velate, dovranno essere coperte, insomma, è giusto, per forza. Giustamente, si vuole avere rispetto del sacro, però entra a queste condizioni. Dobbiamo anche pensare che, per esempio, in Spagna ci sono quello che noi adesso chiamiamo il Duomo di Cordova, era prima una moschea. Ma anche l'Alhambra, che è un grandissimo monumento, è pieno la Spagna. La Spagna è piena di luoghi. A Toledo, il Duomo di Toledo era una. oddio, quello degli ebrei, scusi, non mi viene in mente la parola. Una sinagoga. Una sinagoga, cioè sì, ci sono nella storia, sono nei luoghi soprattutto in cui le presenze si sono succedute, ci sono stati dei passaggi. Adesso per esempio i musulmani, infatti ogni tanto fanno delle manifestazioni dicendo che l'uomo di Cordova deve tornare a moschea, che originariamente era una moschea. Quindi è bellissimo, tra l'altro è meraviglioso. Ma quante chiese sono nate su luoghi in cui c'erano tempi pagani? C'è una geografia del sacro per cui gli uomini pensano che in certi punti e in certi incroci funzioni meglio, la sto dicendo in maniera rozza, ma la geografia, sì, del sacro aveva un senso. Evidentemente una vibrazione di sacro che funziona, ecco. Certo, quindi le cattedrali nascevano su percorsi non casuali. L'unico modo per uscire da questo, diciamo, conflitto fra le religioni è quello che avevano scelto i giovani turchi, cioè che poi non erano tanto fuori dal conflitto perché hanno ammazzato tutti gli armeni. No, ha fatto ecco, delle strage. Però loro hanno detto facciamone un museo. Un museo non è più un luogo sacro, un museo è un luogo storico e quindi non è di nessuna religione. Però poi mette d'accordo tutti alla fine. Come dice? Metteva d'accordo tutti alla fine. Sì, metteva d'accordo tutti e nessuno al tempo stesso. Diciamoci la verità, perché quell'antichissima chiesa per gli ortodossi era il simbolo della più importante cattedrale ortodossa dell'Oriente, per gli islamici era una secolare moschea, quindi sono tutte cose che, come si sa, non tengono mai. I primi sono stati i bizantini, loro hanno concepita con l'architettura di una chiesa cristiana. Sì, nasce certo, così. Infatti non c'è nessuna moschea fatta in quel modo lì. È fatta quella... come una chiesa, non devo esiste. Dire che il Duomo di Cordova, ricordiamoci che non c'è nessun duomo fatto con l'architettura che ha. No, quella è una moschea, perché il Duomo di Cordova. Quella è una moschea, è nata con indubbiamente. Moschea. Quindi, questo va anche ricordato. Se dovessero ripareggiare tutti i conti è complicatissimo, onestamente. È molto, molto complicato ed è molto, e poi anche difficile perché la storia crea degli intrecci. L'unica fortuna, quando Erdogan ha detto noi non toglieremo i simboli sacri, sfido io, perché sono uguali in questo caso. L'Arcangelo Gabriele esiste un culto, un'immagine anche nell'Islam. Lo spirito, la sapienza divina, che è Santa Sofia, non è una santa appunto, ma è la sapienza, certo, divina, è un oggetto di culto, di venerazione anche presso l'Islam. Quindi in qualche modo quella chiesa divide tutti, mettendo insieme tutti, c'è questo aspetto anche così curioso. Che lui, era un simbolo di divisioni che erano molto più serene e molto più legate veramente a una dimensione dello spirito, non tanto a una dimensione politica. Però vorrei capire, secondo lei, oggi leggo, non cito assolutamente gli editorialisti, che poi sono sempre gli stessi, ma c'è come una sorta di simbolo di rivolta dell'Occidente, riappropriamoci dei nostri patrimoni. Ma può essere questa veramente la risposta? O se no occorre avere un, ahimè, sereno, non voglio dire rassegnato, sentimento di dire in questo momento va così, cosa vogliamo farci? Anche perché gli ortodossi si arrabbiano, che fanno? Partono alla guerra e la riconquistano, fanno una crociata per riprendersi una chiesa, mi sembra un po' difficile. Secondo me la cosa grave è come quando distruggono, quello va impedita la distruzione. Cioè come i Buddha distrutti dai talebani, le distruzioni vanno impedite perché di quelle non c'è rimedio. Cioè l'iconoclastia è comunque un gesto di incivilità intollerabile. Infatti. Però Erdogan, che non è casualmente, sarà quello che sarà, non è sciocco, ha detto non toccherò nulla, non leverò un crocifisso, non farò niente. I crocifissi non ce n'è praticamente, c'è solo la sapienza divina che va bene per tutti, l'arcangelo Gabriele che va bene per tutti. Cioè dovrebbe buttare giù un'altra volta la cattedrale perché tutta la pianta magari a croce. Quindi invece no, la pianta è la pianta centrale tonda, quindi andiamo bene. Andiamo bene per tutto. Diciamo che non crea tanti problemi da quel punto di vista di Santa Sofia e non la distruggono, con quello noi stiamo tranquilli. Poi chissà se tornerà a essere cristiana, chissà se tornerà a manterrà islamica. Come abbiamo visto, il mondo è pieno di, appunto, come abbiamo detto, di luoghi di culto pagani passati al cristianesimo. Poi pensi adesso a tutte le chiese protestanti del nord Europa, che i protestanti sono praticamente scomparsi in nord Europa, ci sono in America Latina, ma in nord Europa no. E quindi tutte queste chiese a me è capitato di vedere che sono diventate sale da concerti, se non addirittura discoteche. E questo è ancora più grave come profanazione, se vuole. E quelle magari a un certo punto torneranno ad essere delle chiese protestanti. Ma come funziona? Lucetta, mi spiega bene, sì, proprio in termini... Quando si fa un'operazione, si dice una chiesa sconsacrata, vengo da l'Umbria dove è piena di chiese sconsacrate e le usano soltanto per fare le feste di matrimonio, a volte anche, sì, convegni. Diciamo, l'oggettiva presenza del sacro, che rende il luogo diverso da tutto ciò che è fuori dal tempio, ciò che è profano, non si perde più. Questa chiesa è stata sconsacrata, secondo me, almeno due o tre volte. Una volta hanno sconsacrato dai greci per andarci, sì, gli ortodossi, un'altra volta i turchi che hanno preso il posto degli ortodossi, e poi i giovani turchi l'hanno sconsacrata da tutti dicendo è un museo. Beh, forse più che sconsacrata i giovani turchi l'hanno sconsacrata gli ortodossi, perché la consacrazione di una chiesa avviene con un rito, naturalmente, ma anche in genere con la sistemazione nell'altare di una reliquia, che può essere anche un frammento di una reliquia, ma di una reliquia. Probabilmente quando i giovani turchi l'hanno ridotta museo, quando appunto l'impero ottomano l'ha tramutata in sinagoga, in moschea. Gli ortodossi hanno tolto la reliquia, cioè la vera sconsacrazione sta nel togliere questa reliquia. Quando dicono appunto anche da noi quella chiesa è sconsacrata, è stata tolta la reliquia. Quando uno vuole riconsacrare, deve esserci un rito di consacrazione che in genere si accompagna alla deposizione in una piccola parte dell'altare di un frammento di una reliquia. Diciamo un pezzo di corpo santo, sì, è come se fosse irradia di sacro tutto il luogo. Sì. Ci fermiamo un istante solo con Lucetta Scaffia, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. Aia Sofia per i turchi, Aia Sofia per i greci, Santa Sofia per i cattolici. Tanti nomi per indicare un unico edificio, patrimonio dell'UNESCO, uno dei più conosciuti di Istanbul, dal 1935 trasformato in un museo. Adesso, per un decreto di Erdogan, torna ad essere una moschea, aperta al culto dei musulmani, ma visitabile da tutti. In Turchia i musulmani esultano per la decisione presa da Erdogan. .800 24 0024, questa sintesi è esattamente il tema di questa mattina. È la riattribuzione di un diritto di proprietà di monumenti che hanno storie millenarie, su quali è passata l'arte, l'emozione, la coesione tra le persone basate su principi superiori, oggi diventano, per necessità politica, nuovamente al centro di una disputa. È mio, mi appartiene, ci stavo prima io, ci stai prima te. Intanto ringrazio Valeria Bernardi, Danilo Di Trani da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Siamo in collegamento con la storica, la giornalista Lucetta Scaraffia, che ci ha dato tanto un quadro interessante sulla storia di questo luogo, sulle sue varie attribuzioni. Abbiamo un ascoltatore che ci chiama dalla provincia di Pisa, però è un ascoltatore che mi sembra che abbia una competenza che può senz'altro supportare alcune nostre lacune. Guido, buongiorno. Buongiorno, noi siamo già sentiti all'inizio della fase 1 per questioni relative alla digitalizzazione della didattica a distanza, ma oggi si parla chiaramente d'altro. Lei è un docente di storia orientale a Napoli. Sì, cioè io insegno fondamentalmente storia del mondo slavo, però chiaramente conosco abbastanza bene le vicende. E quindi ci può dare degli elementi anche per capire meglio, diciamo, certo, il significato che è dietro questo gesto, che nulla è casuale. Non è casuale il Papa che ha detto mi dispiace, ma tantomeno è casuale un gesto così forte, clamoroso. Lei pensa che quella cattedrale è diventata un museo in nome di quello che è l'eroe nazionale turco, almeno lo era Ataturk, di cui non si può nemmeno parlare male, è una sorta di vilipendio al Presidente della Repubblica. Cioè, c'era almeno una pena in Turchia se uno insultava Ataturk, il padre della patria, e quindi c'è un problema. Noi ne facciamo subito una questione di guerra di religione. In realtà questo è un gesto non fatto contro una memoria remotissima di quando quella era una cattedrale, ma è una cosa fatta contro la memoria molto viva di Ataturk, ossia della della Turchia laica. È un gesto fatto contro un certo tipo di politica egemone in Turchia negli ultimi 100 anni. Non c'è nessuna lotta contro ortodossi, cattolici. Il Papa, prima di intervenire, sicuramente si è confrontato con la conferenza episcopale turca, i cattolici lì non sono molti chiaramente, ma sicuramente anche col patriarcato di Costantinopoli, e ha evitato accuratamente di definire Santa Sofia una chiesa. Nel momento in cui un esponente di spicco di una qualsiasi delle chiese cristiane presenti nel luogo pronuncerà la parola chiesa, diventerà un grandissimo casino. Cioè, questa è una questione relativa, proprio è una battaglia che si svolge in Turchia contro il laicismo della tradizione. Ma mi faccio capire meglio, esiste un momento, vediamo se ho capito bene, di necessaria rivisitazione di quello che era l'elemento emotivo forte, la Turchia moderna. Atatürk ha fatto togliere il velo, proibire tutti gli aspetti religiosi, ha riportato la Turchia a essere un paese, aveva fatto una costituzione ispirata alla costituzione svizzera, figuriamoci, aveva una visione diversa la Turchia. Adesso, se bisogna fare un passo indietro nella direzione di uno Stato fondamentalista, è chiaro, la prima cosa da fare è depotenziare l'icona del padre della patria, questo è il problema. L'islamizzazione della Turchia e l'attacco alla tradizione kemalista non piace assolutamente, ma non è una guerra religiosa contro cattolici ortodossi. Infatti anche il patriarcato di Costantinopoli non si sta muovendo. Lo sanno benissimo che Santa Sofia non tornerà mai più ad essere una basilica cristiana. Lo sanno benissimo. Tra l'altro è una memoria storica. Cioè, il poeta russo Mandelstam, quando ha dovuto indicare in un dittico poetico due chiese testimoni della fede in Occidente e in Oriente, ha citato a Parigi. Come si chiama? C'ho un blocco di memoria, quella che è andata, che è bruciata. Giovanna d'Arco. No, non Giovanna, no, una chiesa, la chiesa che è bruciata. Ah, una chiesa, scusi, Notre Dame. No, pensavo quella che... Notre Dame, sì, ha detto, vi siete presi tanto per... pensavo le persone buttate. dal punto di vista ortodosso, la Santa Sofia, tra l'altro evidentemente Mandelstam portava anche abbastanza sfiga, perché una è bruciata e l'altra è stata riconvertita in moschea. Ma non è inizialmente nella volontà di Erdogan, che a me non sta per niente simpatico, non è una guerra contro i cristiani. Quindi è una questione diciamo, di politica interna. Lui ha necessità in questo momento di giustificare la sua svolta molto, molto precisa verso un altro tipo di Turchia. E cosa bisogna fare in questo caso? Demolire gli eroi del passato. Fra un po' probabilmente le statue del padre della Turchia verranno oscurate, qualcosa del genere potrebbe accadere. Non è nel suo interesse muoversi contro i cristiani, perché per esempio in Siria, dove lui è molto attivo, i cristiani siriani, che a differenza che in Turchia sono molti, tendenzialmente sostengono Assad come punto di riferimento di una repubblica multireligiosa, e quindi lui non ha nessun interesse attualmente a colpire i simboli della fede cristiana, ortodossa o cattolica che sia. È una questione tutta interna alla Turchia. Io, a me non piace, ma non è una questione religiosa, e ci starei molto attento, perché nel momento in cui un esponente di spicco di una chiesa cristiana comincia a parlare di chiesa di Santa Sofia, cosa che il Papa non ha fatto, proprio perché probabilmente si è confrontato con gli esponenti cristiani turchi prima di intervenire, allora sì, diventa una battaglia di religione. Vede, io mi riferivo a molti giornali che naturalmente chiaro segno, c'è anche esponenti politici che hanno promesso battaglie per questa cosa qua, buttandosi tutti senza fare nomi, perché tanto sono sempre gli stessi, su questa vicenda, dicendo come partire per una nuova crociata. Lucetta Scraffia, cosa ne dice? Rimanga in ascolto, Guido, di quello che dice il nostro ospite, della sua lettura, è d'accordo lei? Che la demolizione della figura dei giovani turchi, di tutta la Kemal Atatürk, è iniziato già da 20 anni, 30 anni, non è questa la prima mossa, è una lunga storia che ha attraversato il passaggio della Turchia a una nuova fase islamista, Quindi non è una scoperta di oggi, e questa cosa di Santa Sofia la vedo molto anche come un passaggio, un allargamento della sfera religiosa islamista nella vita turca, che avviene praticamente ogni giorno, però avviene anche un po' nel mondo. Vorrei dire che quando i giovani turchi hanno trasformato Santa Sofia in un museo, era anche un momento che era, diciamo, subito dopo la prima guerra mondiale, era anche un momento in cui tutto il mondo si stava, diciamo, muovendo verso una fortissima secolarizzazione. In tutto il mondo più era civilizzato, più era secolarizzato. Adesso invece lo vediamo ovunque, il mondo, questa, diciamo, spinta alla secolarizzazione ormai da una decina d'anni conosce una controspinta verso nuove forme religiose, che possono essere religiose tradizionali o altre forme religiose, ma c'è un ritorno religioso, e questo ritorno religioso vede anche la risacralizzazione di Santa Sofia, perché è una dare in mano agli islamisti quello che era stato classificato come un museo, ma non solo luogo, in qualche modo, perché Kemal Atatürk, la stessa religione islamica, era considerata roba da museo, ecco, mentre invece adesso, come sappiamo, è una potentissima forza ideologica e politica. Ci fermiamo soltanto un istante, poi riprendiamo proprio dove ci ha lasciato la riflessione di Lucetta Scarfia. È chiaro, è riaffermare comunque di un concetto che il mondo moderno aveva in qualche maniera lasciato dietro le spalle. Questo si chiama un ritorno al passato, una restaurazione. A qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere, ma l'umanità, il bello che è sempre dibattuta su questi grandi due principi, per cui il passato può essere una scaturigine di ispirazioni e di esperienze, ma vada in qualche maniera delicatamente e non brutalmente sovrascritto, chi pensa che comunque esistano dei valori eterni, immutabili, che è necessario riaffermare per dare dignità al nostro essere umani. Sono punti di vista, possono essere conciliabili soltanto nel rispetto reciproco, però difficilmente, se il mondo si riafferma comunque un primato dell'aspetto religioso, ricominciano poi le battaglie religione, e poi alla fine qualcuno dirà: allora anche qui voglio piantarci il mio vessillo e il mio simbolo. Ci fermiamo un istante. Melog 800 24 00 24. Ci siamo lasciati con Lucetta Scarfia, che ha detto che in fondo fa parte di una tendenza oggi generale, che è quella di rimettere in discussione quello che è stato il messaggio illuminista, razionalista, laicista, che si è assimilato al progresso, alla modernità. Oggi la modernità, ma sono punti di vista, visione della vita, io la vedo diversamente, ma è giusto ascoltare e capire e intendere anche i punti di vista altrui. Oggi in realtà la modernità come si pone oggi è un riaffermare anche dei valori dello spirito e della religione. In questo caso Guido, che è un docente di storia orientale, il nostro ascoltatore, stamattina cercavamo disperatamente docenti di storia orientale, ci ha cercato lui, ci ha chiamato, gli siamo grato, ci dice: guardate che più una vicenda interna turca, loro hanno necessità politica di mettere in ombra quello che è stato il vessillo della occidentalizzazione della Turchia, l'uomo che ha distrutto il clericalismo, distrutto la religione, ha proibito il velo, ha proibito tutte le manifestazioni religiose. È chiaro che in questo momento dobbiamo in qualche maniera riprenderci spazio, visto che stiamo riportando in Turchia quello che è l'essenzialità di uno Stato islamico a tutti gli effetti. Noi guardiamo, osserviamo, certo sono un po' ridicoli quelli che oggi hanno detto: partiamo alla guerra e riconquistiamo la nostra chiesa. Come ha detto giustamente la Scarfia, come ha detto Guido, non tornerà mai più ad essere una chiesa, è roba su cui sono passati secoli, si sono sovrascritto un'infinità di cose. Tornerà ad essere quello che era 80 anni fa, un luogo di culto islamico, sperando, con una differenza di sensibilità rispetto a prima, che possa essere comunque visitato nei termini e nei modi in cui si possa visitare un luogo di culto. Paola da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io trovo che la cosa grave di tutto sia questo intervento del Papa, che, a differenza di quanto ha detto la dottoressa Scarfia, ho trovato piuttosto pesante. Pesante? Ha detto mi dispiace, scusi, se gli dispiace non può esprimere dispiacere, un po' gli può dispiacere, no? Era un posto libero, ha detto adesso no, è diventato un posto. Mi è sembrato un intervento da Papa. Giovanni secondo non l'avrebbe fatto una cosa del genere. Bellino è unico. Ultimamente c'è la tendenza a diventare come esperti di calcio, esperti di cose, esperti anche di Papa. Tutti dicono il Papa dovrebbe dire. Se lei è credente, signora? Pronto? Sì, sì, non si sente? Sì, no, dico, lei è credente, no? Penso, cattolica, sì, apostolica, credente, romana. Normalmente quindi credente, sa che il Papa non è lì perché tirano i numeri fuori dall'otto, è lì perché il Padre Eterno ha scelto quell'uomo, quindi le piaccia o non le piaccia, il Papa è quello, le deve star bene per forza, se no non fa parte della Chiesa, immagino che sia questo, o sbaglio? Beh, ma il Papa è comunque un uomo, anche se è stato eletto a quel seggio, sì. Quindi io trovo che il suo intervento sia stato pesante, perché è entrato criticando un'altra religione e dando di nuovo un motivo agli islamici per tirar fuori la guerra santa, le crociate e tutto questo. Lui doveva dare un segnale di grande apertura, di modernità, nel dire il Dio è unico. Questo avrebbe dovuto fare il Papa. Io ho trovato un intervento veramente di cattivo gusto. Il Dio è unico, Dio è unico, ognuno dice che è unico il suo, però non è quello degli altri unico. Questo non dice nessuno. Chi rappresenta una religione dice sì, vogliamo bene a tutti e comprendiamo tutti, però il Dio è il nostro. Se alla fine uno sul tavolo mette quale prendi di Dio fra questi tre e ognuno si piglia il suo, se fa parte di... Cioè, questo, io, a me questa cosa fa sorridere perché guardo e osservo da fuori. Ma non può dire il Papa il Dio è unico e tutti è lo stesso. Dio è unico ma è il nostro, se no non sarebbe esistito l'evangelizzazione, la catechesi, andare nei paesi lontani a portare il messaggio di verità, di vita e di via, penso sia così. Non mi è sembrato appropriato, oltretutto l'Islam è Istanbul, purtroppo lo è. Se si ama Istanbul si accetta così, è così. Se si ama il mondo arabo... Prima si chiamava Costantinopoli, però... Cioè, diciamo che... È stata Costantinopoli, ma è stata anche... Adesso mi interessa, visto che lei è così attenta rispetto al pubblico, sembra che sta ascoltare, è una cosa... Lei è d'accordo, si sta rendendo conto, in questa particolare porzione della nostra contemporaneità, prima non ci si poneva questo problema, cioè riappropriarsi comunque di ciò che il passato in qualche maniera come eco lontana ci attribuiva. È un passaggio, prima passa attraverso l'iconoclastia, buttiamo giù le statue, poi ridiamo le cose che avevamo preso in guerra agli altre popolazioni. Oggi è rimettere una sorta di segnale sui luoghi che sono appartenuti in passato al nostro punto di vista. Se si estende questo tipo di pensiero dovremmo ripensare e rivedere dimensioni nuove per la maggior parte dei monumenti che noi consideriamo posti belli e visitabili, non è d'accordo? Di arte che avessero codificato le variazioni da fare, visto che l'arte contemporanea turca è pessima, il gusto è pessimo, e quindi di non toccare assolutamente quello che c'era, ma che venga trasformata un luogo di culto islamico va benissimo così. D'altra parte, a me onestamente Cordova... personalmente non cambia nulla, penso alla maggior parte dell'umanità non è che si metterà in croce per questo, ma il discorso è spostato almeno questa mattina su un piano ideologico. Guardate, l'invadere della nostra civiltà lascia un alto segnale indelebile, il Papa ha detto una parola. Beh, abbiamo discusso, abbiamo riflettuto, abbiamo elementi in più per farci una nostra opinione. Alla prossima. Ora. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.